e l'Ialelia Crispis. Le iscrizioni sulla facciata di Palazzo Bocchi appartengono a un periodo in cui a Bologna l'ambiente intellettuale subiva il fascino di un certo tipo di linguaggio, simbolico ed ermetico, che rievocava filosofie proprie dell'antico Egitto e della civiltà greca classica. Si può inquadrare nello stesso contesto la cosiddetta Pietra di Bologna, di cui la prima testimonianza ci giunge attraverso le parole dell'erudita belga Giovanni Torre. Costui, ospite a Bologna nella villa di Marcantonio Volta, nel 1567 scrisse una lettera a un collega inglese, in cui citava enigmatici versi in latino incisi su una lapide presso il complesso di Casaralta, adiacente alla villa. «Elia Lelia Crispi, né uomo né donna né androgino, né fanciulla né giovane né vecchia, né casta né meretrice né pudica, ma tutto questo insieme. Uccisa non dalla fame, né dalla spada, né dal veleno, ma da tutto questo insieme. Lucio Agato Prisco, né marito, né amante, né parente, non triste, né lieto, né piangente, questa, non mole, né piramide, né sepolcro, ma tutto questo insieme, sa e non sa a chi è dedicata. È un sepolcro che non contiene un cadavere, è un cadavere che non ha un sepolcro attorno a sé, ma è il cadavere stesso a essere sepolcro». Questa letteralmente è la traduzione del testo, ma si tratta evidentemente di un linguaggio occulto, la cui comprensione è riservata agli iniziati. La notorietà della lapide crebbe nel corso del tempo al punto che quasi 100 anni dopo il letterato Emanuele Tesauro scrisse che «sarebbe bastata da sola alla fama di Bologna». Ma cosa significano questi versi? Alla domanda hanno cercato di rispondere nel corso dei secoli letterati, storici, scrittori e persino alchimisti. Per alcuni si tratta di un esercizio di puro virtuosismo intellettuale. Secondo altri, l'interpretazione del testo consentirebbe la sintesi della cosiddetta pietra filosofale. Secondo quanto scritto dal giurista Richard White nel 1568, si tratta della traduzione di un antico epigramma greco attribuito ad Agazia lo Scolastico, testo latinizzato da Decimo Magno Ausonio e trascritto da Angelo Poliziano in epoca medievale. Tuttavia, a seguito di una serie di valutazioni sulla base di riferimenti bibliografici e testimonianze, gli storici sono portati a credere che lapide ed epigrafe non siano affatto di epoca classica. In tempi più recenti fu lo psicanalista Carl Gustav Jung a rimanere affascinato dall'enigma, sebbene si risolse infine a considerarlo soltanto una burla. Sostiene a tal proposito lo scrittore Nicola Muschitiello: «Si è detto che la lapide sia uno scherzo, un'invenzione cinquecentesca per mistificazione erudita, per stimolare la mente e incitarla alla ragionare. Quando però lo scherzo, l'invenzione non ripiombano nello stretto spazio della trovata, ma chiamano i pensieri di molti studiosi e fecondano l'immaginazione, significa che non erano né scherzo né invenzione qualsiasi, o che perlomeno da tal livello ludico si sono riscattati, perché fu toccato un ambito spirituale dove si radicano significati profondi, così che la pietra ha parlato spesso per bocca altrui, anche se tace. Ciò che è comunemente accettato dagli studiosi è che la lapide sia stata scolpita nella prima metà del Cinquecento per volontà di Achille Volta, gran maestro di un ordine religioso cavalleresco detto la Milizia della Vergine o Confraternita della Beata e Gloriosa Vergine Maria, passata alla storia anche con il nomignolo tutt'altro che lusinghiero Frati Gaudenti. La confraternita fu fondata a Bologna nel 1260 da Loderingo degli Andalò e altri esponenti della nobiltà cittadina, e la sua regola fu approvata da Papa Urbano IV l'anno successivo. Nacque con l'intento di conciliare le continue controversie che sorgevano tra le fazioni guelfe e ghibelline e di tutelare la pace cittadina, con particolare riguardo nei confronti delle vedove e dei bambini. Si trattava anche di un'occasione per estendere ai laici l'esperienza spirituale dei nuovi movimenti religiosi che si stavano affermando in quel momento, in particolare francescani e domenicani. Infatti, l'accesso all'ordine non era riservato soltanto ai religiosi, ma anche ai laici. I membri dell'ordine potevano scegliere se vivere in comunità conventuali, seguendo la regola agostiniana, oppure vivere presso la propria abitazione. Al pari degli ordini militari, era concesso il porto d'armi, purché fossero usate pro sedandis tumultibus civitatum, ovvero allo scopo di sedare eventuali tumulti cittadini. Va precisato che uno degli intenti dell'ordine era quello di combattere la diffusione dell'eresia, e per questo non era consentito l'accesso all'ordine a chiunque potesse dare adito a sospetti in questo senso. I membri laici dell'ordine potevano persino sposarsi, a patto di rispettare una serie di vincoli. dovevano indossare lo stesso saio bianco con una grande croce rossa sul petto dei colleghi chierici, praticare periodicamente digiuni e naturalmente essere dediti alla preghiera. Il simbolo dei gaudenti era una croce greca con ai lati due stelle a sei punte, che testimoniavano la vicinanza con l'ordine templare. A tutti i membri dell'ordine era proibito partecipare a feste e divertimenti e non potevano ricoprire cariche pubbliche. Va detto che le buone intenzioni vennero disattese fin dai primi anni di esistenza della confraternita. Lo stesso fondatore, Loderingo degli Andalò, continuò a esercitare come se nulla fosse la sua attività politica, facendo sospettare che la sua scelta religiosa fosse in realtà dettata da un tornaconto personale. Nel Medioevo, infatti, appartenere a un ordine religioso comportava una serie di vantaggi, non ultimo l'esenzione del pagamento di tasse e tributi. Inoltre, le controversie venivano risolte in sede ecclesiastica e non in sede civile, il che equivaleva a una sorta di immunità di fatto di fronte alla magistratura cittadina. Questo, tuttavia, nel 1301 non impedì a due membri dell'ordine di essere condannati a rogo dall'Inquisizione a Montecchio Maggiore, nei pressi di Vicenza. Nel 1266, dopo la battaglia di Benevento, che comportò un'escalation di violenza nei confronti delle famiglie ghibelline in ogni città, i gaudenti Loderingo degli Andalò e Catalano dei Malavolti vennero inviati a Firenze per fare da paceri. Pare tuttavia che, contravvenendo al giuramento di agire con imparzialità, si schierarono clamorosamente dalla parte dei Guelfi, facendo cacciare i ghibellini dal capoluogo toscano. È in questa occasione che ebbero modo di conoscere Dante Alighieri. Sarà un caso che il sommo poeta li abbia collocati entrambi all'inferno nella bolgia degli ipocriti? Nel corso del tempo l'ordine dei frati gaudenti continuò a esistere, nonostante vennero ben presto a mancare i presupposti che giustificavano la loro presenza. La contrapposizione tra Guelfi e Ghibellini perse via via significato e nel XIV secolo divenne sostanzialmente un retaggio del passato, mentre per la lotta all'eresia si affermò con decisione il pugno della Santa Inquisizione. L'ordine diventò così un'elite di nobili un po' eccentrici, sempre più vicini agli ambienti esoterici, fino al definitivo scioglimento avvenuto nel 1589 con la morte dell'ultimo gran maestro, Camillo Volta. Durante i decenni successivi, la pietra di Bologna subì le ingiurie del tempo, diventando quasi illeggibile. Per questo motivo, nel 600, il senatore Achille Volta, omonimo dell'antenato, la fece ricopiare. Tuttavia, curiosamente, non fece trascrivere le ultime cinque righe del testo, quelle che riguardano il sepolcro e il cadavere, che sono conosciute grazie all'illustrazione pubblicata in un libro nel 1589 da Salomon Reibisch. La riproduzione è stata restaurata nel 1988 ed è oggi conservata all'interno del lapidario del Museo Civico Medievale, la cui sede è a Palazzo Ghisilar di Fava. La città delle volte.